Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei è il claim di questo programma. Cerchiamo cioè di raccontarvi le trasformazioni del mondo che ci circonda attraverso una lente particolare, i consumi, le abitudini di acquisto. Il più delle volte lo facciamo utilizzando i dati dei principali istituti di ricerca, un terreno, questo della ricerca sul consumatore, che complice la crisi, ma non solo, sta attraversando una vera e propria rivoluzione. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend dedicato invece alla ugly mania, quando il brutto fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. 2012 annus horribilis per i consumi nel settore moda, abbigliamento e calzature, che hanno registrato un calo dell'8% per tutti i canali di vendita. Secondo Federazione Moda Italia, nel 2012 hanno chiuso 12.461 negozi. Compie 50 anni Calimero, il pulcino piccolo e nero entrato nella storia del costume e nella memoria collettiva italiana. Per l'occasione, il Future Film Festival di Bologna, in programma dal 12 al 17 aprile, gli dedicherà un evento speciale, una vera e propria Calimero Story. Red Bull ha accettato di modificare la sua comunicazione a tutela di bambini e adolescenti, con impegni che l'antitrust ha ritenuto sufficienti per chiudere il procedimento per pratica commerciale scorretta. La società di Energy Drink ha assicurato che eviterà pubblicità con giovani consumatori come target e rivedrà il sito, eliminando i cartoni animati, sottolineando l'elevato contenuto di caffeina e invitando a un consumo moderato. Invito a colazione al supermercato. Apre nel punto vendita Coop di Novoli, in provincia di Firenze, il Laboratorio del Gusto. Ristorante con menù stagionale e materie prime prelevate direttamente dal supermercato. Andrea Bianchini, lo chef, uno dei più noti cioccolatieri d'Italia. Avveniristico, con la sua forma ad elica ritorta. Prodigio di ingegneria, con la sua campata unica, lunga 125 metri. È già un caso il ponte pedonale firmato da Santiago Calatrava per la cittadina canadese di Calgary. In acciaio rosso e vetro, il Peace Bridge viene percorso ogni giorno da più di 6.000 persone. La borsa della spesa. La strada su cui viaggi, John Anderton, è quella meno percorsa. Assicurati di essere stato di Anderson. Non perdere questa che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Anderton, scappa via da qui. John Anderton, avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno che passerai con noi sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Vieni a Tarzano. Stacca la spina, John Anderton. Dimentica i tuoi guai. Sacro Graal del marketing, intercettare bisogni e desideri dei consumatori con un'offerta su misura. Siamo ancora lontani, per fortuna, grazie ai limiti della privacy, dallo scenario di Minority Report. Certo è però che l'obiettivo di chi fa ricerca oggi sul consumatore è quello di una profilazione sempre più precisa in base alle abitudini di acquisto e di vita. Una ricerca che nell'era dei social network e della condivisione delle informazioni non si può fare senza la collaborazione del consumatore stesso, mai così preparato, attento, consapevole come adesso. Un esempio significativo di questa collaborazione è il nuovo strumento di ricerca messo a punto da GFK Eurisco, istituto in prima fila in Italia nelle ricerche sul consumatore. Total Single Source Panel è una piattaforma su cui vengono fatte convergere le ricerche effettuate su migliaia di consumatori, dotati fra le altre cose di un tablet, uno scanner di codice a barre e un GPS. Per fare che cosa? In che modo? A vantaggio di chi? Tutte cose che abbiamo chiesto a Silvio Siliprandi, amministratore delegato di GFK Eurisco. Consumatore Ma poi in realtà il cittadino ha subito un'evoluzione incredibile dal secondo dopoguerra ad oggi, con una fortissima accelerazione negli ultimi 20 anni. Un'evoluzione tutta all'insegna della maggiore capacità di autonomia decisionale, maggiore informazione e anche una forte, fortissima caduta di sacralità di tutti i riferimenti di una volta, quindi un consumatore molto meno succube delle marche, molto meno succube del prezzo, che vuol dire valore, che vuol dire qualità, quindi un consumatore veramente molto difficile. Poi in realtà nel consumo succede quello che succede nella vita di tutti i giorni: nelle ultime elezioni si sono mossi milioni e milioni di voti, e sul mercato tutti i giorni si muovono milioni e milioni di consumatori e cambiano marca. Questa è una cosa che 30-40 anni fa succedeva molto, molto meno di sovente, così come si cambiava meno il voto in politica, anche al netto della crisi. La crisi è un evento, diciamo, contingente che preoccupa tutti, però ci sono delle cose in corso che sono prima della crisi, seguono la crisi e ci saranno anche dopo. Le aziende cercano, in questo mare di complessità, cercano di capire meglio le persone, le loro evoluzioni, ma cercano anche di mettere insieme un mucchio di segnali che loro hanno: dati di mercato, dati di vendita, curve che impazziscono e che si muovono su e giù molto più rapidamente. Dall'altro lato deve spendere in genere cifre molto importanti per farsi vedere, per comunicare. Come fa a operare questo strumento? Su quale tecnologia si basa? Si basa su tante tecnologie, infatti è reso possibile proprio dalla tecnologia. La tecnologia ci aiuta a non scocciare troppo le persone, perché sennò faresti un panel di matti, e quindi devi fare una presa di informazioni molto, molto leggera, molto poco invasiva, addirittura meglio se totalmente passiva, cioè la persona non si accorge di nulla, ovviamente sa che tu stai prelevando delle informazioni. Per esempio, i consumi vengono tutti scansionati attraverso un lettore tipo quello che c'è al supermercato, quindi tenete conto che il numero di spese medie circa 3 alla settimana per le famiglie italiane, pochi minuti la spesa viene scansionata e i dati arrivano a noi in forma assolutamente anonima, non legati a una certa famiglia. Dopodiché, se sei una famiglia collegata a internet, carichi un software tracker, poi dopo lui scompare, ti segue nella tua attività internet che fai attraverso il tuo computer. Se vuoi fare una navigazione assolutamente privata, puoi inibire il sistema. Di quanti individui, quante famiglie stiamo parlando? Parliamo di un potenziale di 13.000 famiglie e di 30.000 persone. Come vengono reclutate queste persone e è previsto un compenso? Famiglie e persone vengono reclutate attraverso una distribuzione di un campione rappresentativo sul territorio, ovviamente rappresentativo per le fasce sociodemografiche e culturali della società italiana, e vengono reclutate dalla nostra rete di intervistatori. Si può dire scelte una per una e certificate. Il panel prevede che le famiglie poi restino e collaborino per più anni, però poi c'è una rigenerazione di circa un 15-18% ogni anno del panel stesso. Le famiglie hanno un catalogo di premi, non si danno premi in denaro sonante, però c'è un catalogo di premi, accumulano punti se collaborano bene su tante attività. Facciamo degli esempi su come vengono raggruppate poi queste informazioni. Immagino non solo quali e quanti prodotti vengono acquistati, ma in quale momento, in relazione a quale campagna di promozione sul dato prodotto, come vengono incrociati poi i dati? È tutto indiretto, cioè non è mai la persona che mette in relazione le cose, per cui la cosa più attiva che devi fare è scansionare la tua spesa fondamentalmente, o dire che hai cambiato cellulare, orologio, queste cose qua. Dopodiché, se tu partecipi a questo panel, per 3 mesi e mezzo porti con te un aggeggino che si chiama Eurisco Media Monitor, la metà circa di uno smartphone, te lo metti in tasca, in borsetta, la cintura, dove vuoi, e questa roba qua registra tutte le cose a cui tu ti esponi, compresa la radio che stiamo facendo oggi, la TV, e ha dentro un GPS, perché noi consideriamo il territorio la stessa stregua di un medium. Anche questo può essere inibito naturalmente se hai da fare dei percorsi assolutamente privati. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, tutti i dati arrivano a noi in forma assolutamente anonima, nel senso non arrivano a noi i dati di spesa, di esposizione ai mezzi agganciati al nome e al cognome della persona, ma agganciati a un codice ovviamente criptato che in una poi macchina nostra si aggancia ai nominativi e non trasferisce l'informazione, ma trasferisce il fatto che la persona collabora collaborato e questo fa accumulare i punti. Questa è la garanzia sull'eventuale profilo di privacy che potrebbe essere sollevato per ricerche di questo tipo? Assolutamente, si firmano tonnellate di documenti e di garanzie su questo fatto, ma noi non abbiamo mai bisogno di avere un dato individuale, noi facciamo ricerca aggregata e quindi facciamo ricerca per segmenti sociali, per grandi gruppi sociali. Il dato individuale non è analizzabile, non ci interessa. Man mano che tu fai l'escansione dei tuoi codici a barre, noi possiamo correlare quello sì con la pubblicità a cui tu ti sei esposta, perché ogni secondo noi sappiamo che traccia sonora ti stava arrivando. Sapete che le tracce sonore sono univoche come le impronte digitali. Noi abbiamo sostanzialmente un palazzo dove ci sono centinaia di registratori che registrano tutto quello che va on air in Italia ogni giorno. Tutto questo ci consente durante la notte di fare sound matching. Terzo elemento per chiudere il cerchio è poi il people understanding, cioè capire le persone profondamente nelle loro attitudini, nelle loro ansie, nelle loro preoccupazioni, nelle loro speranze, nei loro profili, che è l'intelligenza del dato, perché sapere la quantità di spesa, i mezzi che uno ha ascoltato, ma senza sapere chi è quella persona, ti dà una cosa che non ha intelligenza, non dà conoscenza. Grazie a Silvio Siliprandi per essere stato con noi. Grazie a voi. Essere e avere. La bruttezza può essere vincente, ci insegnano i Rolling Stones. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di ugly mania. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Il bello ha dei canoni precisi, il brutto invece lascia spazio all'immaginazione. Così Umberto Eco nella sua Storia della bruttezza, oggi il brutto, declinato in tutte le sue forme, arriva a fare tendenza. Una bruttezza non solo estetica ma anche funzionale. La ugly mania comprende tutti quei prodotti brutti ma anche scomodi che rompono un tabù. Dai vestiti importabili agli alberghi inospitali, dalle agenzie per top model fuori dagli schemi ai protagonisti di serie TV e reality al limite del rappresentabile. Tra provocazione ed elogio dell'imperfezione, la ugly mania sta contagiando molti settori nel mondo dei consumi. Patrizia. Anche il brutto ha una sua specifica cifra espressiva e una sua, diciamo così, bellezza. Stiamo parlando del brutto rappresentato nell'arte, nel cinema, nella moda, nei consumi, quello usato nel circuito mediale come contenuto appunto estetizzato con un suo specifico portato di efficacia in chiave comunicativa e di marketing. È tutto relativo, certo, però c'è anche un brutto formale che il nostro sistema del gusto convenzionalmente riconosce come tale. Ci segnala Umberto Eco: il brutto non esiste più solo come opposizione al bello, ma rivendica ormai una sua dimensione autonoma. E vale la pena di ricordare che prima di scrivere il trattato sulla bruttezza, che appunto hai citato in apertura, Eco ne aveva scritto uno sulla bellezza. In tempi di crisi, di neorealismo, di ritorno ai basic, di voglia di autenticità, anche l'imperfezione, l'accettazione della difettosità delle cose, insomma il brutto, che è costitutivo di questo mondo insieme al bello, trova una sua collocazione nell'immaginario oggi, nei consumi e anche nei nuovi set di valori che stiamo mettendo a sistema per un futuro un po' tutto da riprogettare. Rimane un tabù la bruttezza fisica dei corpi delle persone. Questo specifico tema oggi è oggetto per esempio di ricerche specifiche nel campo della sociologia, proprio come parametro di discriminazione sul lavoro oppure dei bambini a scuola, o addirittura come indicatore di valutazione del rapporto genitori-figli. e al femminile è noto, il tabù è ancora assoluto. Questo emerge chiaramente dai dati di un settore come quello della chirurgia plastica. L'intervento più praticato al mondo nel 2011 è stata la liposuzione, pari al 20% di tutti i trattamenti. L'ossessione estetica di una bellezza contemporanea dai canoni irraggiungibili, soprattutto al femminile, proposti dal circuito mediale, provoca appunto disperazione e frustrazione, soprattutto nei giovani che, secondo un autorevolissimo psicoterapeuta, Gustavo Pietropoli Charmé, si sentono brutti. Sono afflitti, cioè, e dominati, ci dice, dall'emozione della bruttezza, quindi non da una bruttezza oggettiva che prende il sopravvento sulla ricerca gioiosa della bellezza che aveva caratterizzato l'adolescenza fino a qualche tempo fa. Lo scrive nel suo ultimo saggio, fresco di stampa, intitolato «La paura di essere brutti, gli adolescenti e il corpo». Sull'efficacia comunicativa del brutto, così come sul suo impatto cognitivo ed emotivo, i casi e i pareri sono contrastanti e controversi. Per esempio, mentre i brutti font, cioè le lettere sgraziate, sproporzionate, graficamente infelici, rimangono più impressi, le immagini crude e ripugnanti di parti del corpo affette da cancro, per esempio, stampate sui pacchetti di sigarette di molti paesi del mondo ormai, che dovrebbero avere effetto dissuasivo sul fumo, in realtà è dimostrato che non abbiano questi effetti sperati, poiché associati dal fumatore comunque all'idea del fumo e dunque attivano l'area cerebrale del piacere e non quella della paura. Molti dei protagonisti delle nuove serie TV sono personaggi imperfetti, a volte veri e propri antieroi. Abbassa di molto l'asticella del buon gusto il docu-reality Il mondo di Anna e Bubu, incentrato sulla quotidianità di una Little Miss America e della sua maleducatissima famiglia, un fenomeno negli Stati Uniti ora in onda su Real Time. La regina dei concorsi di bellezza. Vai, pozzola della mamma, sei fantastica, baby! Bello il mio sacchiotto. Ci sono troppi estrogeni in casa, serve un po' di testosterone. Orso burro! Mi aiutate, porca tro***a? Non fate un c***o a nessuno. Basta! Siamo una famiglia di matti. Che c'è? Ci piace essere noi stessi. Ci amano o ci odiano, a noi non interessa. Noi ci vogliamo bene. Ci divertiamo un sacco. Mamma! Non ho fatto niente! Allora, ma che volete? Patrizia, c'è spazio per l'imperfezione anche nel mondo patinato per eccellenza, quello della moda. When ugly is beautiful, quando il brutto è meraviglioso, titolava il Financial Times il dicembre scorso, con riferimento al ritorno delle borchie di certi elementi iconici del punk nella moda. Nello stesso periodo Franca Sozzani sul suo blog scriveva Ugly is fashionable, il brutto va di moda, sempre sul tema borchie e rivisitazioni artistiche e fashion più o meno proprie del punk. Diciamo moda e pensiamo a modelli e modelle con precisi canoni estetici ed espressivi, ma c'è per esempio chi rovescia questa equazione. È l'agenzia inglese Ugly Model di Londra. Il sito è di fatto una vetrina di aspiranti modelli e modelle fuori dai canoni, quindi originali per talento e per fascino, che sono proprio legati alla loro non bellezza. Andiamo oltre, rimanendo nel mondo della moda, verso il realismo crudo dell'imperfezione fisica ostentata, al punto da diventare quasi un'altra idea di bellezza, con il caso del marchio Pelliano, che usa testimonial sfigurati nel volto o nel corpo. Il nome del marchio italiano di fatto è olandese, fa abbigliamento maschile di alta qualità con tessuti italiani per uomini, dice il brand, che hanno vite vere vissute raccontate attraverso la campagna Imperfect, che è un gioco di parole poiché c'è un apostrofo dopo la prima I che trasforma il termine inglese in I am perfect, sono perfetto. I testimonial sono quattro giovani uomini, raccontano la loro storia in video mentre sono dal barbiere a farsi barba e capelli. Jeroen, per esempio, ha riportato gravissime ustioni al volto, dice di non volersi sentire diverso, etichettato e guardato da occhi pieni di pregiudizi estetici che poi si traducono di fatto in comportamenti sociali di esclusione. D'altra parte, la realtà che anche la moda come l'arte è capace di rappresentare nella sua verità è fatta anche di crudezza e di bruttezza, e imparare a sostenere visivamente ed emotivamente anche il brutto non è obiettivo di poco conto. È quella sorta di scomodità emotiva che una certa produzione culturale in questo momento sta interpretando appieno. È il disagio, il fastidio, l'imbarazzo, un misto di emozioni che gli inglesi definiscono con un termine preciso awkward, che è la formula non a caso di molti reality show di successo. E anche nel mondo delle serie televisive non sfugge, per esempio, in Girls, che è la versione depatinata, ringiovanita e più cinica di Sex and the City, la bruttezza della protagonista, che è sgraziata, maldestra, scomposta, insomma una antibella, con una nudità ostentatamente impietosa. Altra serie dal titolo Life is too short, la vita è troppo breve, gioca sul doppio senso di short, che vuol dire anche basso, ed è incentrata sulla storia di un uomo affetto da nanismo. È un mockumentary, cioè un documentario finzionale, fintamente vero, sul suo quotidiano, anche qui la centratura sulla fisicità, su una visione del mondo cinica, eccetera. Diventano oggetto di culto i film brutti, ai film peggiori di ogni anno sono dedicati gli anti-Oscar Razzies Award, e se digitiamo worst movie oppure film brutti su qualsiasi motore di ricerca o su YouTube, troviamo migliaia di risultati, ma soprattutto forum, blog, siti creati da appassionati di film inguardabili e comunità di cinefili cultori del brutto. La scomodità non è solo emotiva ma è anche fisica, quindi il brutto diventa anche prodotto, servizio o esperienza ricercata da consumatori e clienti. Fenomeno degno di nota, le esperienze ad altissima scomodità che vanno dal passare una gelida notte all'Ice Hotel di ghiaccio in Svezia, fare vacanze al limite dell'autopunizione fisica e quasi in spirito espiatorio, abitare in case anti-comfort come nel caso dell'esperimento di Tokyo, Reversible Destiny Lofts, questa struttura progettata proprio per essere scomoda e controintuitiva, all'indossare scarpe scultura incamminabili o altri accessori bellissimi ma immettibili. E la scomodità come privazione è interessante, diventa anche una dimensione esperienziale del lusso contemporaneo. Un esempio su tutti, la Spafinder newyorkese per salutisti fanatici, è un esempio di nuovi servizi offerti dall'industria alberghiera, la disintossicazione extra lusso molto punitiva, centrata su fitness estremo e assoluta deprivazione calorica e alimentare. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam sulla ugly mania? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia! Ciao, buon pomeriggio. È l'hotel più brutto del mondo e se ne vanta. Come si legge navigando il suo sito, Landsbrinker Budget Hotel è orgoglioso di deludere i suoi clienti da 40 anni. L'hotel è uno dei tanti ostelli della gioventù della città, spartano, con una decina di posti letto e prezzi popolari, che però ha fatto della modestia dell'offerta il suo tratto distintivo, scommettendo su una strategia di comunicazione all'insegna del rovesciamento creativo, condita con una buona dose di autoironia. Per cui la mancanza o scarsità di servizi rendono l'hotel accidentalmente eco-friendly, visto che non ci sono gli asciugamani, il phon manca e spesso l'acqua calda scarseggia. Oppure un'immagine in stile prima e dopo mostra un cliente sorridente al check-in e deluso e abbrutito al check-out. Il risultato è che il coraggio dell'operazione è stato premiato, il tam-tam della rete ha portato un rapido aumento delle prenotazioni e trasformato l'ostello in una meta cool. Grazie Alessia. Patrizia, per concludere, un esercizio di stile, una provocazione, tutto ciò, qual è poi il ritorno commerciale di tutte queste formule? La parola chiave rimane come sempre esperienza. Il consumatore cerca esperienze, anche quelle brutte, di segno contrario, diciamo, a quelle convenzionali. Il brutto, come abbiamo sentito, è comunque legato a dei valori, a dei bisogni, a dei desideri, non è fine a se stesso, è certamente un concetto che genera un particolare pathos e quindi commercialmente traducibile e molto usato dal marketing. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, dove troverete questa e tutte le altre puntate. Link, immagini e video di tutto quello che vi abbiamo raccontato li trovate invece sulla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.